Diritto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Resta aperto lo scontro tra Italia ed Europa sui conti pubblici dopo la risposta di Roma sullo snodo del terremoto. Oggi in arrivo un nuovo decreto. È tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia, così il presidente del Consiglio europeo Tusk in visita a Tripoli. Domani il vertice a Malta. Uccide l'uomo che investì la moglie. Ora parlano i suoi legali. Non ricevette mai le scuse, una vicenda che ha sconvolto tre famiglie. Caccia al lupo. Le regioni chiedono al governo un rinvio dell'esame del provvedimento. Galletti a Radio 24. L'abbattimento è solo l'ultima razio. Decine di migliaia di persone in piazza e scontri in Romania contro la legge che depenalizza la corruzione. Si dimette per protesta il ministro del commercio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece, se ci volete scrivere. In apertura dunque torniamo sullo scontro tra l'Italia e Bruxelles sui conti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Nel confronto tra Palazzo Chigi e la Commissione europea la palla torna ora a Bruxelles. Sul tavolo del commissario agli affari economici Moscovici ci sono infatti le linee guida elaborate dal ministro Padoan, con una premessa ricordata questa mattina dallo stesso Padoan. Nessuna manovra estemporanea, riduciamo il debito nel nostro interesse con una strategia che protegge la crescita. Ed ancora Padoan avverte un ritmo eccessivamente accelerato di aggiustamento danneggerebbe la ripresa. In sostanza il governo, come ripetuto anche dal presidente del Consiglio Gentiloni, si dice pronto a rispettare gli impegni europei ma senza rischiare di indebolire il percorso di crescita e delle riforme. Da qui la scelta di un confronto di ampio respiro con le misure che nel dettaglio arriveranno non prima di aprile nell'ambito del documento di economia e finanza. Concetto questo confermato questa mattina dal vice ministro all'economia Casero alla collega Anna Marino. Sentiamo. C'è una lettera chiarissima dove abbiamo detto che noi abbiamo la necessità di puntare allo sviluppo. Io riteniamo che l'Europa debba insistere nella politica dello sviluppo e che un'azione sui conti non debba deprimere questa possibilità. Esiste un'operazione di analisi, di studio, sapendo che questi sono gli obiettivi e sapendo che abbiamo delle necessità contingenti molto gravi, tipo quelle del terremoto. Nell'ambito di questo presenteremo un pacchetto che poi sarà un pacchetto che nel DEF ti racconta un po' di tutto questo. Pacchetto che entrerà dunque nel DEF per una correzione dei conti per oltre 3 miliardi e che avverrà per un quarto con tagli alla spesa e per il resto con maggiori entrate. Queste ultime includeranno imposizioni indirette, le accise, miglioramenti nella lotta all'evasione fiscale. In ballo, Simone, restano le spese per il terremoto per le quali il governo chiederà uno sconto di 1 miliardo. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta e la lettera di risposta del governo italiano. Restiamo su questa, diamole l'importanza che deve avere, ma il dibattito si deve orientare su cosa vogliamo fare per il paese. Sono parole del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenuto a Milano Unica alla fiera del tessile in corso a Ro Fiera. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Sono dei provvedimenti che mettono in sicurezza la questione del rapporto governo italiano con l'Europa, ma non sono dei provvedimenti strutturali e non spingono per la crescita. Proprio per questo dobbiamo rifare, diciamo, un percorso inverso, cioè prima decidere quali effetti vogliamo determinare sull'economia reale in chiave italiana ed europea, poi individuare strumenti, poi risorse e poi intervenire sui saldi di bilancio. Mi sembra che il percorso che si sta facendo, il rapporto di confronto tra il governo italiano e l'Europa, sia di intervenire sui saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. Ecco, ribaltare questo paradigma di pensiero è la grande priorità che il Paese deve affrontare sia in chiave interna che in chiave europea. E tra i punti importanti del confronto con l'Europa, anche in termini di conti, ci sono i provvedimenti che riguardano le popolazioni colpite dal terremoto e dall'ondata di maltempo. Il Consiglio dei Ministri è riunito per varare un decreto su questo e nel frattempo i cittadini delle Marche si riuniscono davanti a Montecitorio. Teresa Trillò, buongiorno. Buongiorno Simone, a te. Sì, il Consiglio dei Ministri è iniziato intorno a mezzogiorno. Il provvedimento sul terremoto prevede fra l'altro delle procedure semplificate per gli appalti riguardanti gli edifici strategici e le scuole, la possibilità per le regioni di acquisire immobili da destinare ad abitazioni temporanee per chi ha perso la casa e anche la creazione di zone franche dove per 2 anni ci sarà l'esenzione delle imposte per le imprese. Il decreto sostanzialmente snellisce le procedure burocratiche che sono contestate proprio dagli abitanti delle zone terremotate che da questa mattina protestano qui davanti a Montecitorio. Sentiamo Francesco Boldrini di Pieve Torina. Io sono qui a protestare per chiedere a tutti coloro che ci tutelano e che dicono di governarci, di vedere un po' la situazione della nostra zona, rendersi realmente conto delle vere necessità della gente e riuscire almeno a dare una situazione dignitosa alle persone che hanno scelto di rimanere nel proprio paese e alle persone che vorrebbero ritornare. Oggi qui ci sono soprattutto gli abitanti delle Marche, sentiamo anche le ragioni di Maria Paola Galassi di Ussita e poi la linea torna allo studio. Sono 6 mesi dal terremoto e stiamo ancora dentro dei loculi di 30 metri quadri e non ce la fa più. Lei di dov'è? Ussita. Quanti siete a Ussita? Siamo circa 360 persone, 400, senza più niente, basta, sono 6 mesi che noi stiamo tribolando. E a proposito di questioni che riguardano l'Europa, l'altro fronte importante è sicuramente quello dell'immigrazione. Ci sono da registrare oggi le dichiarazioni importanti alla vigilia del vertice di Malta, proprio su questi temi, di Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. L'Europa ha dimostrato di essere capace di chiudere le rotte di migrazioni irregolari, come ha fatto nella rotta del Mediterraneo orientale. Ora è tempo di chiudere la rotta, dalla Libia all'Italia, lo ha detto appunto Tusk durante un incontro proprio in Libia col premier Fayez al-Serraj. Ho parlato a lungo col premier Gentiloni ieri e posso assicurare che possiamo riuscirci. Quello che serve è la piena determinazione a farlo. Dunque, così Tusk. È ora una vicenda che sta facendo anche molto discutere, come avete sentito dalla trasmissione di Gianluca Nicoletti, quella dell'assassinio per vendetta che si è consumato a Vasto. Una vicenda che ha sconvolto per sempre 3 famiglie. Lo affermano i legali di Fabio Di Lello, il 34enne rinchiuso da ieri nel carcere di Vasto, dopo aver ucciso a colpi di pistola l'uomo che in un incidente stradale provocò la morte nel luglio scorso di sua moglie, la 33enne Roberta Smargiassi. Un lutto mai superato, a cui si aggiungeva la rabbia per quell'investitore mai punito, libero di vivere, uscire, divertirsi. Di Lello non riusciva ad accettare che chi gli aveva portato via la moglie non fosse mai stato arrestato né posto in stato di fermo. Da qui le fiaccolate, le manifestazioni, gli striscioni, gli appelli sui social con cui chiedeva giustizia per Roberta, la moglie amatissima che andava a trovare tutti i giorni al cimitero e sulla cui tomba ieri ha lasciato la pistola ancora calda prima di lasciarsi catturare. Ora la famiglia del giovane assassinato, il 21enne Italo D'Elisa, denuncia una campagna d'odio contro di lui da parte del marito e dei parenti di Roberta, con continui incitamenti anche su internet a fare giustizia. L'avvocato della famiglia D'Elisa, Pompeo Del Re. Italo D'Elisa è una persona molto mite. È stata posta una campagna di demolizione della figura di questo ragazzo che è stato distrutto prima moralmente e alla fine fisicamente. La vittima era imputata di omicidio stradale ed era stata rinviata a giudizio qualche mese fa. A breve avrebbe avuto la prima udienza dal GUP e lo attendeva una condanna. Dopo l'incidente, Italo era stato sottoposto a tutte le analisi che avevano escluso l'assunzione di alcol o droghe. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca e ci spostiamo a Torino, dove sarebbe stata scoperta una delle centrali di ricettazione del rame. Sentiamo. Un'organizzazione criminale composta da una dozzina di persone specializzata in furti e riciclaggi di rame con un giro d'affari di circa 200.000 euro al mese. I carabinieri di Settimo Torinese hanno emesso ordinanze di custodia cautelare per 9 persone coinvolte nei traffici dopo l'arresto di 3 ricettatori nelle settimane scorse e hanno individuato una ditta di demolizione dove confluiva il rame rubato in tutto il nord e il centro Italia. L'indagine ha portato all'individuazione delle responsabilità nella ricettazione e nel riciclaggio di rame di altre 3 aziende locali. I militari in particolare hanno individuato e messo sotto sequestro la ditta di demolizioni che funzionava, secondo quanto scoperto da agenti inquirenti, come vero e proprio punto di riferimento per i predoni di oro rosso. I furti documentati dai filmati hanno interessato impianti fotovoltaici e siti di stoccaggio di aziende fornitrici di energia in mezza Italia. L'indagine, coordinata dalla Procura di Ivrea, è durata più di un anno, periodo nel quale sono state denunciate in totale 31 persone. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E restiamo ancora una volta sulla cronaca e ci spostiamo ad una maxi operazione contro l'Ndrangheta che ci riporta ad una vicenda della quale tra l'altro ci siamo ampiamente occupati. Ve la ricordate? Quella del matrimonio con atterraggio di elicottero in piazza a Nicotera. Sentiamo. C'è anche il padre della ragazza che per il suo matrimonio atterrò con l'elicottero senza autorizzazione nella piazza centrale di Nicotera tra gli arrestati dell'operazione Robin Hood effettuata nel Vibonese da Guardia di Finanza e Carabinieri. Il fatto all'epoca fece molto scalpore e dopo quell'episodio il comune di Nicotera fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Vincenzo Spasari, impiegato di Equitalia, ritenuto contiguo alla cosca d'Indrangheta dei Mancuso. In manette sono finiti anche il consigliere regionale di Forza Italia Nazareno Salerno, l'ex presidente della Fondazione Calabria Etica Pasqualino Ruberto e l'ex direttore generale del Dipartimento Lavoro della Regione Vincenzo Caserta. E ancora avvocati ed imprenditori, tutti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato, turbativa d'asta ed abuso d'ufficio. Le indagini hanno documentato che la Cosca Mancuso non rinunciava neanche ad appropriarsi dei fondi della Comunità Europea per il sostegno delle famiglie in difficoltà. Un vero comitato d'affari distraeva i finanziamenti comunitari del credito sociale indirizzandoli su conti correnti di società private. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia. Cambiamo decisamente argomento, oggi è il giorno di Telefisco. Radio 24 Day. Il convegno dell'esperto risponde del Sole 24 Ore, dedicato come sempre, come ogni anno, a tutte le novità fiscali. A questo stiamo dedicando una giornata speciale, un Radio Day. Anna Marino sta seguendo i lavori. Anna, vai, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Simone. Anno dopo anno il fisco ci presenta sempre qualche sorpresa. Quest'anno sotto i riflettori le novità della legge di stabilità per il 2017 e le disposizioni per l'attuazione della riforma fiscale. A Telefisco, come ogni anno, si cercano le soluzioni, acquisiti di professionisti, contribuenti, operatori d'impresa che si devono aggiornare. Quello che dicevi appunto è il tradizionale convegno dell'esperto risponde, giunto alla 26ª edizione e c'è il tutto esaurito nelle principali sedi delle 100 città italiane accreditate, 350 i punti dell'Agenzia delle Entrate in collegamento diretto. Un fronte caldo è quello della lotta all'evasione. Il problema effettivo del paese è quello di un'evasione IVA che è doppia rispetto a quella europea, lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossello Orlandi proprio nel corso di Telefisco del Sole 24 Ore. Sentiamo. Un bilanciamento fra le esigenze fondamentali del recupero dell'imposta evasa e la necessità per i cittadini di non avere adempimenti maggiori. La lotta all'evasione fiscale quindi è una delle priorità, ma soprattutto perché è necessario recuperare anche fondi? Io credo che in un paese civile, per prima cosa, l'imposta debba essere distribuita equamente fra tutti e che tutti debbano assolvere al proprio dovere, quindi è sempre una priorità. In un momento come questo è ancora una maggiore priorità perché serve veramente a tenere in ordine i conti dello Stato e a evitare probabilmente tagli. Obiettivo comune con il governo la lotta all'evasione, come afferma anche il viceministro all'economia Luigi Casero a Telefisco 2017, che annuncia anche soluzioni su due temi caldi per le dichiarazioni invece. Oggi un emendamento che permetterà di conciliare bilancio civilistico e bilancio fiscale e nel giro di pochi giorni sarà risolta anche la questione delle comunicazioni IVA da trimestrale, diventa semestrale, dando più fiato ai professionisti. E ribadisce Casero anche l'obiettivo prioritario di completare la digitalizzazione del fisco. Se tutto si svolge online, c'è più trasparenza e si rafforza la lotta all'evasione. Per ora è tutto. E grazie dunque ad Anna Marino per questo aggiornamento da Telefisco. Gli aggiornamenti da Telefisco andranno avanti sostanzialmente per tutta la giornata di questo importante appuntamento. Siamo a Roma per le vicende della Giunta. Nonostante lo slittamento dell'interrogatorio annunciato ieri dal suo legale, Virginia Raggi potrebbe essere sentita oggi dai PM che l'hanno indagata per abuso d'ufficio e falso. Tra i punti che la prima cittadina dovrà chiarire ci sono anche i contenuti delle chat recuperate nel telefonino dell'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, arrestato a dicembre per corruzione. Sarebbe stato lui, a quanto emerge dai messaggi, a pilotare la promozione di suo fratello, Renato, a capo del turismo del comune. Nelle chat la sindaca si sarebbe lamentata con Marra per l'aumento di stipendio da 20.000 euro andato al fratello. Su quella nomina Raggi aveva dichiarato all'autorità anticorruzione del comune di aver agito in piena autonomia e per questo è stata accusata di falso. Dalle stesse chat emergerebbero in modo evidente anche i contrasti e le tensioni all'interno dei 5 Stelle romani, veleni alimentati in questi giorni anche dalla notizia del presunto dossieraggio ai danni di Marcello De Vito, principale avversario della Raggi nelle comunarie pentastellate. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grandi polemiche sollevate in queste ore dall'ipotesi che si riapra la caccia al lupo, la cui moltiplicazione degli ultimi anni minaccia e colpisce molte aziende di allevatori. Le regioni hanno chiesto al governo di rinviare l'esame del provvedimento, un provvedimento in 22 punti, come ha spiegato questa mattina il ministro dell'Ambiente Galletti a 24 Mattino, tra cui attività antibracconaggio, maggiori contromisure da parte delle aziende, dove l'ipotesi di prelievo ed eventuale abbattimento è solamente l'ultima e subordinata alla realizzazione di tutte queste azioni. Sentiamo proprio Galletti, appunto, intervistato da Alessandro Milano e Oscar Giannino. Oggi ci sono in Italia più di 1500 lupi. I nostri dati ci dicono che i bracconieri ne ammassano da 250 a 300 ogni anno. Secondo lei oggi è aperta la caccia al lupo o la apro io? Se noi non interveniamo con queste azioni che sono nel piano per diminuire la pressione che c'è sui territori, perché il problema in alcuni territori è che non c'è una pacifica convivenza fra le persone, le attività economiche e il lupo, quelli continueranno ad ammassarli. La 22esima azione, che è quella contestata, sa che cosa dice? Che una volta che siano state fatte tutte queste 22 azioni, quindi che sia approvato, che sono state fatte le recinzioni, che siano alla state fine cosa si può fare? Alla fine si può fare questo, cioè la regione solo può chiedere al mio ministero di intervenire per prelevare dei capi in misura limitatissima. E adesso parliamo di spreco alimentare. In Italia si sprecano circa 16 miliardi di euro di prodotti alimentari ancora consumabili. Questo avviene soprattutto nelle nostre case, dove gettiamo circa 145 kg di cibo all'anno per famiglia, il 75% dello spreco complessivo nazionale. È quanto emerge dal rapporto realizzato dall'osservatorio Waste Watcher, presentato a Roma in occasione della quarta giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che si celebra domenica 5 febbraio. Inoltre, solo 6 italiani su 10 sanno che esiste una nuova normativa antispreco, la legge 166 del 2016, e il 90% dichiara di non conoscere i contenuti del provvedimento o di aver solo vaghe informazioni. Serve una svolta culturale. Andrea Segre, fondatore di Last Minute Market. Bisogna fare prevenzione. La prevenzione nel caso dello spreco alimentare si chiama educazione. Dobbiamo andare nelle scuole e riinsegnare il valore del cibo che non va sprecato. Cresce però al contempo l'attenzione. Un italiano su 5 si rivela infatti virtuoso. Il 57% ha comportamenti di attenzione allo spreco. E da marzo, con i diari di famiglia, in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, Waste Watcher lancerà i primi monitoraggi per documentare su un campione di 400 famiglie lo spreco reale nelle case italiane. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo in Romania. L'audio che sentite è quello dei dimostranti e polizianti sommossa che si sono affrontati ieri sera a Bucarest, dove decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro un pacchetto di misure del governo per depenalizzare una serie di reati di corruzione. Un gruppo di manifestanti ha lanciato petardi e bottiglie incendiarie contro i poliziotti schierati a guardia degli uffici governativi, che hanno risposto con lacrimogeni. Almeno una persona è stata fermata e un'edicola di giornali è stata data alle fiamme. Questa mattina si è dimesso il ministro del commercio, Florin Ianu, una decisione, ha detto l'esponente socialdemocratico, presa per ragioni morali e per il bene dei miei figli. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, e inizieremo dalla Liguria. Vi abbiamo raccontato ieri della vicenda di Albenga e dei fondi per l'alluvione bloccati perché la regione si è dimenticata di chiederli allo Stato. Parleremo di questo col presidente della regione Liguria, Toti, e parleremo con lui anche di questo convegno dell'ultradestra al quale ha dato l'ok. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello scontro tra Italia e Europa sui conti pubblici, siamo tornati su quello scontro, abbiamo parlato della situazione post terremoto, ci siamo occupati delle parole di Donald Tusk, che ha detto che è tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia. Ci siamo occupati di cronaca con la vicenda dell'uomo che ne ha ucciso un altro, l'uomo che investì la moglie. Ci siamo occupati anche di caccia al lupo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dalla Liguria. Giovanni Toti, presidente della regione, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E anzi, bentornato ai nostri microfoni. Allora, ieri ci siamo occupati di una vicenda che è quella dei fondi per l'alluvione del 2014, dell'ottobre del 2014. Una vicenda che ci ha incuriosito molto. Succede questo, e lo abbiamo raccontato e ce lo siamo fatto raccontare anche dal sindaco di Albenga che doveva ricevere i fondi. C'erano dei fondi stanziati allo Stato. È successo che la regione si è dimenticata sostanzialmente di chiederli, così ci è stato spiegato. Possiamo sentire il sindaco di Albenga a 30 secondi, quello che abbiamo sentito ieri, e poi vorremmo una sua risposta, presidente. Sentiamo. No, noi avevamo fatto anche un incontro con l'assessore, cioè avevamo fatto venire anche qua ad Albenga, cioè lui dice che in realtà sono stati fatti, che non era chiaro come deve essere fatto, che comunque la protezione civile dice che comunque arriveranno. Mi sembra tutto un po' confuso, presidente. A me sembra molto confuso soprattutto il sindaco d'Albenga. Vabbè, quello è il taglio che abbiamo sentito. Lui ci ha raccontato anche che è andato a Roma e si è trovato con questi soldi che non erano stati richiesti dalla regione. Sa darci una risposta su questo? È molto semplice, non c'è nessun mistero e la risposta è chiarissima. La regione ha fatto esattamente quello che il Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio incaricato di verificare i danni ha chiesto di fare alla regione, ovvero compilare una serie di moduli come si fa abitualmente, chiunque abbia pratica di protezione civile glielo potrà dire, non solo con i danni all'agricoltura ma con i danni alle imprese, con i danni ai privati, con i danni alla pubblica amministrazione, che poi seguono principi risarcitori e modalità diverse. Come vi è noto, la pubblica amministrazione lavora per somme urgenze in caso di calamità naturale, quindi stanzia fondi per riparare strade, elettrodotti, acquedotti e quant'altro, e via via poi vengono stanziati fondi per risarcire i danni ritenuti risarcibili dallo Stato. La regione ha fatto tutto quello che doveva fare e il Dipartimento di Protezione Civile ha una stima esatta dei danni per quell'alluvione uno dopo l'altro. Dopodiché, se il governo non ha stanziato i soldi su nessun capitolo di spesa per risarcire, o la Protezione Civile tramite Dipartimento dell'Agricoltura agendo in combinato disposto non hanno stabilito come risarcirli, quando risarcirli, perché non hanno i soldi, diciamoci la verità, se no tutto questo problema non esisterebbe. Oggi la pratica è nelle mani del Ministero e del Dipartimento. Quindi voi non vi siete scordati di chiedere i soldi, ma in sostanza. Ma figuriamoci se ci siamo scordati di chiedere i soldi. Non ci siamo scordati di chiedere i soldi. C'è qualcun altro che si è scordato di mettere i soldi sui capitoli di bilancio. Perché stiamo a discutere di chi ha fatto un foglio di carta o chi non l'ha fatto. La verità è che qualcuno non ha fatto l'unico foglio di carta che serviva, cioè che è lo stanziamento, i soldi per risarcire quello che doveva dare i soldi. No, non scherziamo, allora. Se fossero quei soldi sarebbero già nelle tasche degli agricoltori danneggiati. La verità è che il governo ha risparmiato, non se li ha messi e ora cerca un modo per uscirne quantomeno decorosamente. Onorevolmente, dice lei. Stanziamo i soldi e finiamola lì. Senta, Toti, la vorrei coinvolgere su un'altra cosa perché ho visto che se ne discute molto in queste ore a Genova. Parliamo del convegno Alliance for Democracy, Alleanza per la Democrazia, che è un convegno che si deve svolgere l'11 febbraio e lo dico col sorriso, Alleanza per la Democrazia, perché dentro esatto, c'è... così suonerebbe bene, ma lo so, c'è dentro Roberto Fiore di Forza Nuova, Ivan Benedetti che è a destra di Marine Le Pen, Udo Voigt che è un negazionista tedesco che inneggiò all'SS e Nick Griffin che è un britannico che è stato condannato per incitamento all'odio razziale. Lei dice libertà di parola, questi il convegno lo possono e lo devono fare. No, io dico che se non vengono a Genova io sono solo che felice, voglio dire, non è che se ne vanno piango o se vengono rido. Dico una cosa molto semplice, che se commettono dei reati, hanno commesso dei reati o si presuppone possano commettere dei reati, come ho scritto ieri al prefetto di Genova, dottoressa Spena, le autorità intervengano con la massimo rigore e la massima durezza, impedendo la manifestazione se ci sono motivi di ordine pubblico o ci sono sospetti che possa essere luogo di commissione di reati, di opinione o di altro genere, quelli previsti dalla legge. E eventualmente, se poi all'interno di quella manifestazione qualcuno dovesse proferire qualche parola che va a scontrarsi con la legislazione vigente, dalle clausole di transizione della nostra Costituzione al codice penale, a quant'altro, apologie di reato di varia sorta, e vorrei che fossero perseguiti dalla magistratura. Quindi non è che è contento, perché un po' dai giornali sembrava. Sto dicendo una cosa molto banale, che non spetta al presidente della regione né alle assemblee elettive fare dei processi sommari dicendo chi ha diritto e chi non ha diritto di parola. Ci sono dei codici scritti, per fortuna nel nostro paese ci sono le prefetture, le questure, le magistrature indipendenti che sono chiamati a valutare se quel convegno si deve fare o non si deve fare in termini di legge. Se il prefetto lo vieterà per ragione di ordine pubblico, io darò assoluta ragione al prefetto. Lei teme che ci possano essere ragioni di ordine pubblico, perché Doria ha detto scendiamo in piazza, no, il sindaco? Qualche preoccupazione, il sindaco faccia il sindaco, mo che scenda il sindaco in piazza a far guai nella sua città, mi sembra un altro paradosso di questa assurda vicenda. Ma il sindaco si appelli anche lui al prefetto. Se su quel convegno, come si vietano alcune partite di calcio, come si vietano molte manifestazioni, come dire, più legittime da un punto di vista di contenuti, da cortei a quant'altro, per ragioni d'ordine pubblico, faccia le stesse valutazioni il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è l'organismo preposto a decidere di queste cose. Se non ci saranno le condizioni per farlo, applaudirò al prefetto che ha preso una decisione. Se invece, secondo le autorità di polizia e di magistratura, ci sono le condizioni perché si faccia, che pur essendo idee lontane da me, estreme, ripugnanti, disdicevoli, usate l'aggettivo che credete più opportuno, e pur tuttavia non commettono e costituiscono reato, dico che le autorità in quanto tali non possono impedire la libertà di parola di quelle persone. Mi sembra un ragionamento, come dire, conseguenziale. Io non sono d'accordo, penso in anticipo con quello che verrà detto lì. Non conosco nessuna di queste persone, non sono mie alleate politiche, non le vorrei come alleati politici, quindi non ho nulla a che spartire con quel convegno. Detto ciò, ritengo che in uno Stato di diritto valgano le leggi, quindi se uno dice anche una cosa che mi risulta particolarmente disdicevole da farmi prendere il Malox e pur tuttavia non è un reato, non vedo come il Presidente della Regione glielo possa impedirglielo. Grazie Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Qualche ascoltatore mi suggerisce, allora, io abbiamo sentito il Sindaco di Albenga che dice che la Regione non ha fatto la richiesta, oggi sentiamo il Presidente della Regione Liguria che dice è il Ministero che non ha stanziato i soldi. A questo punto domani ci toccherà sentire il Ministero per capire questi quattrini della Regione Liguria per l'alluvione Liguria dove siano finiti. Avvocato Francesco Ciabattoni, buongiorno. Buongiorno. E ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia ad Arquata del Tronto. Ieri vi abbiamo accennato a questa vicenda, la vicenda di Enzo Rendina, che era l'ultimo reduce di Arquata del Tronto, l'ultimo rimasto là in zona, nonostante gli avessero chiesto di andarsene perché la zona è pericolosa, lo ricordiamo, la zona colpita dal terremoto con frazioni interamente rase al suolo, la stessa Arquata parzialmente distrutta. Rendina però è andato a processo a questo punto per direttissima, ho capito bene Ciabattoni? Chiarisco che il signor Rendina non è un volontario dell'assistenza, un residente. Che ha avuto la casa completamente distrutta dal terremoto. Sì. È una persona che poi nell'imminenza del sisma ha aiutato tanta gente che stava sotto le macerie. Quindi è una persona, diciamo, che ha collaborato totalmente con tutte le autorità presenti sul territorio per cercare di risolvere o di dare una mano per risolvere i problemi che vi erano. Però a un certo punto Ciabattoni le autorità gli hanno detto guardi Rendina, grazie davvero, però sinceramente questo posto è pericoloso, ci possono rimanere solamente i vigili del fuoco, le persone preposte, un normale cittadino come lei non ci può rimanere, eppure lui è voluto rimanere, ha continuato a girare tra le frazioni, ho capito bene che dormiva addirittura nella casella. Non è proprio così, lui in pratica, desiderando di rimanere sul territorio, e il territorio di Arquata, sì, va bene, quello, diciamo, che è abitato è un territorio pericoloso perché vi sono delle abitazioni che potrebbero crollare, ma vi sono delle parti del territorio che sicuramente sono meno pericolose perché non vi sono abitazioni, non vi sono case, non vi è niente. Quindi lui che cosa cercava? Cercava un posto per rimanere nel territorio, quindi in pratica un posto per dimorare. Sì. La prima cosa che ha trovato è stata una tenda della protezione civile che era rimasta lì messa lì dalla protezione civile ed si è collocato in questa tenda, anche accolto da quelli della protezione civile, i quali sapevano perfettamente che lui stava lì. Poi c'è stata la neve e quindi la tenda, diciamo, ha avuto qualche problema per la neve, il peso della neve è stato, diciamo, anche abbastanza forte, abbastanza importante. Vabbè, comunque la sostanza, mi scusi Ciabattoni, che Rendina è finito a processo? È finito a processo perché è accusato di reati come interruzione di pubblico servizio e resistenza al pubblico ufficiale. Ora, interruzione di pubblico servizio si riferisce forse al fatto che lui è rimasto in questa tenda della protezione civile che doveva essere tolta perché lì dovevano essere creati i moduli abitativi che poi in pratica possono essere creati soltanto dopo che la neve è stata sgomberata e quindi in pratica è un'operazione che va fatta successivamente allo sgombero di tutto quanto quello che è la neve, ghiaccio eccetera. Per quanto riguarda poi il resto potrebbe essere interruzione di pubblico servizio perché poi dopo si è collocato nella struttura, diciamo sempre in una tenda dei vigili del fuoco e lì è rimasto per qualche giorno. Ciabattoni non ha un po' esagerato il suo assistito, mi scusi? Sono valutazioni che possono essere fatte, diciamo, ex post in maniera, diciamo, anche abbastanza controversa, nel senso che non sono valutazioni che possiamo fare noi qui. Lui voleva rimanere sul posto. Gli hanno detto vai nell'hotel di San Metto del Tronto in cui c'è un posto per te. Lui purtroppo non può stare in una struttura chiusa e muraria perché dopo i fatti del terremoto non riesce più a dormire in una struttura muraria. Ascolti una cosa, ultima domanda, quando è la sentenza o l'hanno già condannato? La sentenza no, non c'è condanna, c'è stata soltanto la convalida dell'arresto, c'è stata la sua scarcerazione, la sua liberazione e l'unico vincolo che rimane è quello che lui non può accedere al comune di Acquario del Tronto, forse per evitare che egli possa tornare in quei posti in cui è stato, diciamo, in questo momento hanno causato questo procedimento. Ora però vi sono diverse persone, diversi privati, che si sono offerti per regalargli una roulotte. Quindi io sto facendo adesso un'istanza al sindaco affinché lui individui un'area, diciamo, che non dà fastidio a nessuno del territorio di Arquata in cui poter collocare una roulotte e farlo rimanere e farlo tornare al comune di Arquata. E vedremo se ci riuscirà. Grazie avvocato Francesco Ciabattoni, legale di Enzo Rendina, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ricominciamo il nostro giro per l'Italia. Ricominciamo da Napoli, dove c'è una vicenda che a nostro giudizio ha dell'incredibile. Una ragazzina che ha subito stalking, una ragazzina di 13 anni che ha subito stalking e a quanto pare anche molestie da un professore. La vicenda come finisce? Finisce che il professore resta a insegnare in quella stessa scuola e lei deve cambiare scuola e città. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli a partire dall'immigrazione con il Presidente del Consiglio europeo Tusk che dice che è tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia. Domani il vertice a Malta. E resta aperto lo scontro tra Italia e Europa sui conti pubblici dopo la risposta di Roma. Intanto è stato appena approvato il decreto sul terremoto. Uccide l'uomo che investì la moglie, ora parlano i suoi legali. Non ricevette mai le scuse. La caccia al lupo. Le regioni chiedono al governo un rinvio dell'esame del provvedimento. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, andiamo nei dintorni di Napoli, anche se qualche giornale lo cita non diremo qual è il luogo, ma la vicenda, devo dire la verità, ci ha molto colpito. Partita ieri con una lettera anonima al Corriere del Mezzogiorno, volutamente anonima, adesso esplosa anche con un'ispezione inviata dal ministro dell'istruzione Fedeli. È la vicenda di una ragazzina che ha subito stalking e molestie da un professore in una scuola, e siamo alle scuole medie. Il risultato però, se ho capito bene, Angelo Pisani, avvocato della famiglia, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Se ho capito bene è stata la ragazzina che è stata costretta a lasciare la scuola e a lasciare anche la città sostanzialmente dove c'è la scuola, il luogo dove c'è la scuola, e non il professore che ancora insegna là. Sì, purtroppo Purtroppo la ragazzina, dopo aver subito per circa un anno molestie e stalking di ogni tipo, addirittura con 600 messaggi, sms di notte, telefonate continue, pedinamenti da parte di questo soggetto, alla fine ha dovuto cambiare scuola, essendo passata tra l'altro dalle medie alla scuola superiore, e per cercare di stare tranquilla, mentre invece questo soggetto è rimasto nella scuola dove ci sono ancora dei parenti di questa bambina, perché in un piccolo paese è normale che tutti vadano nella stessa scuola, e nonostante le visite psicologiche, le richieste alle istituzioni di intervenire tempestivamente, da settembre, solo nel mese di gennaio, abbiamo avuto un primo provvedimento, a mio avviso molto lieve, da parte del Tribunale, che ordina a questo soggetto di non l'allontanamento. Sì. Mi scusi, avvocato, dato che qua c'è un ascoltatore che ci scrive via SMS dicendo, mettendo in connessione due vicende, questa è la vicenda di Vasto, e dice: siete voi, siete dei fomentatori di odio e con voi si succedono cose come quelle che sono successe a Vasto perché la ragazzina può aver equivocato. Qua mi pare che ci siano riportati anche dai verbali SMS nei quali lui, il professore, scrive: egoista, non faccio sesso con mia moglie da un anno, ti rovino, ti boccio, e oltretutto accertamenti da parte dei carabinieri, cioè è una cosa che c'è nelle cose. Poi, per carità, con tutto il garantismo del caso, poi lei è un avvocato, ci sarà processo, si vedrà quello che succederà, però insomma dal punto di vista delle indagini che sono state portate avanti mi sembra che le cose siano abbastanza nitide, no? Ma certamente, infatti, ecco, forse questo è il motivo per cui il tribunale ha impiegato 6 mesi per intervenire. Posso pensare solo questo, perché il Tribunale, prima di intervenire, ha fatto tramite i carabinieri tutte le indagini del caso, ha ascoltato i testimoni, ha letto quelli che sono gli SMS. Tutti quanti sappiamo oggi che quando scriviamo lasciamo delle prove, quindi gli SMS, le telefonate di questo professore sono tutte registrate, quindi non si può certamente equivocare o pensare a uno scherzo quando si chiama una ragazza di 13 anni di notte, quando la si pedina, quando la si incontra per strada, quando la si tenta di baciare. Quindi sono tutti elementi che purtroppo non lasciano nessun dubbio sulla condotta di questo soggetto, che a mio avviso va immediatamente allontanato dalla scuola, fino a quando, ecco, un tribunale non deciderà in via definitiva cosa è accaduto. Ma solo il sospetto che in una scuola ci possa essere un soggetto che, anziché tutelare i bambini, anziché insegnare l'italiano, cerchi di molestarli, cerchi di influenzarli o gli rovini il futuro, gli rubi l'anima, io penso che questo non sia proprio possibile. Quindi, allora, avvocato, noi non siamo. Allora, noi abbiamo cercato di rintracciare la dirigente scolastica regionale, ma insomma oggi ci sono un po' di problemi, anche perché è in corso una protesta davanti all'ufficio scolastico regionale di Napoli con una serie di problemi e non siamo riusciti a rintracciarla. Non abbiamo voluto rintracciare il dirigente scolastico proprio per mantenere il più possibile l'anonimato sulla vicenda, almeno da questi microfoni. Vorrei capire se lei ha parlato col dirigente scolastico, immagino di sì, e che cosa ha detto. Guardi, vi dico di più, la bambina l'anno scorso ha seguito addirittura un percorso con la psicologa della scuola nella scuola, quindi dirci oggi che a scuola non sapevano nulla o non si erano accorti di nulla è ancora forse altrettanto grave rispetto a quanto accaduto, perché la bambina l'anno scorso ha seguito un percorso psicologico nella scuola per vedere quali erano i traumi che aveva. Dopodiché, quando ci siamo accorti che dalla scuola non era emerso nessun provvedimento a tutela della bambina, abbiamo deciso di denunciarlo ai carabinieri, e i carabinieri hanno svolto altri 6 mesi di indagini con un ulteriore CTU da parte anche della procura a tutela della bambina, con un provvedimento lievissimo nei confronti di un soggetto che si è permesso di non solo di tradire quelli che sono i suoi doveri istituzionali e professionali, ma di rovinare la vita a una bambina di 13 anni che tra l'altro già aveva subito un forte trauma per motivi personali. Allora io la ringrazio, grazie ad Angelo Pisani, avvocato della famiglia, per essere stato con noi. Come abbiamo detto, ci sono state anche le telefonate e poi l'invio di un'ispezione da parte del ministro dell'istruzione. Vedremo come evolverà la vicenda. Intanto ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.